con lo spazio che ospita il lavoro. Apollo in questo caso guarda un'immagine che non è nata per essere Marsia, però ci riporta anche un'idea di Marsia, soprattutto per il materiale nel quale è stata scolpita, intagliata. Stiamo parlando del legno, il legno sul quale viene poi tradizionalmente affissa, inchiodata, legata l'immagine di Marsia. Mentre a sinistra c'è un primo incipit, che è poi un'immagine guida della mostra, nella quale è leggibilissimo il mio approccio a una cultura, in questo caso di formazione bolognese, perché Simone Cantarini, pur non essendo bolognese, si è formato largamente nella scuola di Guido Reni, un'immagine della pittura, metafora della pittura, che utilizzo per spostare il codice che è messo a punto nel XVII secolo in una dimensione che si è fatta carico dell'esperienza avanguardistica, cioè dare alla materia un ruolo a sé stante, autoportante, perché con una mano ho strappato fisicamente parte del volto, riportando in evidenza gli strati che ho accumulato nel tempo come letto dell'immagine stessa. Strati che io stesso ho dimenticato, che sono stati sepolti e che vengono disseppelliti attraverso un atto traumatico. Lo sfregio nel mio lavoro è quasi sempre questo, non è un tentativo adesso di abbruttire o violentare una immagine, è un tentativo di ricarnificarla, di portare la pittura come materia prima in evidenza al di là di quella che è la narrazione. Quindi puoi passare da una narrazione a una presentazione della pittura e della scultura. Ti interrompo subito. Sì. È anche una sorta di atto simbolico per far venire la pittura, dargli una valenza di contemporaneo. Allora, come si poteva rappresentare l'allegoria della pittura nel barocco? Era inconcepibile, diciamo, utilizzare il colore come elemento a sé stante. In questo caso pittura è veramente una sorta di tavolozza che noi scopriamo sotto l'immagine, quindi per forza c'è una dimensione che noi chiamiamo contemporanea, perché questo è un lavoro che è stato riscritto alla luce di quello che è accaduto dopo. Ma come ogni autore si pone sempre nella misura di riscrivere una storia alla luce di quello che è accaduto dopo. Così come io non ho idea, non posso prefigurare che cosa sarà, però so benissimo che cosa è stato. E creare un cortocircuito temporale può ovviamente rivelare un'immagine proprio come rivelazione, cioè ridonarla alla vista in una chiave completamente diversa. È da tempo che non ci sentiamo e non ti chiedo come stai. Se abiti ancora al terzo piano, si è riparlato con i tuoi. È da tempo che non ci sentiamo, da quel lunedì sono cambiate un po' le cose, o è rimasto tutto lì. Ancora qui la tua maglietta, quella da calcio che ti piaceva, ancora il tuo profumo addosso, ed io non l'ho mai più messo. E ogni tanto le riguardo le foto sul mio cellulare, e quando si rideva insieme non si stava così male. Baby, cosa vedo quando guardo te? Come te lo spiego se non so cos'è? A San Felice il mare facciamo le tre. A sapermi amare ci riuscivi solo te. Basta, voglio indietro quella maglia. Voglio indietro quei sorrisi buttati per una che manco mi chiama. Era un lunedì o era un déjà vu, ma è da quel lunedì che non ti vedo più. Al tuo sapore addosso, sto mare è mosso, per me non ho mosso dei tuoi occhi blu. Che non sta più in piedi e non ci vedo più. quello che vediamo come colore caldo, rossiccio, arancio che emerge, non è un colore casuale comprato in mesticheria, è qualcosa che ho trovato in una, passeggiando per Grosseto, in una strada che stavano costruendo, in una vena bagnata dall'acqua che era pazzesca, ci siamo una pozza di sangue. Con quel materiale ho costruito 7-8 anni di lavoro sostanzialmente. L'idea di trovare anche il pigmento per il proprio lavoro è importante. Noterete un culto della materia e del materiale che insomma, è fondante in tutto quello che faccio. Senza l'interferenza con il materiale, che è qualcosa che ostacola e plasma il pensiero, il mio lavoro non è minimamente pensabile. È anche per questo che non è delegabile, per me non è neanche pensabile l'assistente. Non c'è assistenza se non parzialmente meccanica quando devo sbozzare una scultura. Ma è una fresatura iniziale, è qualcosa che è funzionale, non nego la tecnologia assolutamente, la assimilo quando è necessaria, per esempio nella preparazione di un'immagine attraverso l'abilità che si può avere con Photoshop o altro. Ma la stesura materiale dell'opera è qualcosa che compete ai miei limiti, alle mie possibilità, al mio innamoramento per quella materia. Qualcosa che la pelle del mio lavoro deve essere toccata in ogni centimetro da me, è così, non esiste qualcosa che è stato affidato a un altro. Ho anche tentato, con risultati pessimi, cioè per me è qualcosa che non mi appartiene. Quindi... Chi sono stati i tuoi maestri in accademia? Hai parlato di incisione, prof di pittura, chi? Ho avuto dal terzo anno Massimo Pulini, che è stato un ottimo insegnante per me, cioè assolutamente in linea con il mio culto della storia dell'arte. Certo. E... Guglielmo Massacci Vecchietti in scultura, incisione l'ho fatta già dal primo anno, l'ho fatta con Parisi, indipendentemente dagli insegnanti e il clima che si era creato in accademia, che era molto buono quando l'ho frequentata io, magari lo è anche adesso, però ho fatto di personalità differenti e notevoli, al tempo mio c'erano Sissi, Zuelli, Blues, ma certo, delle realtà profondamente diverse, io mi occupavo di qualcosa che non si occupava negli anni 90 di Bologna fuori, no? Certamente, sì, sì. Certo. L'educazione era anche quella impronta. Per me è stato un percorso fatto anche di grandi attriti, non so che dire. Immagino. Appena sono arrivato, cattedra di anatomia, qui si farà tutto fuorché anatomia. A me invece interessava farla in maniera proprio metodica. Sono accadute anche queste cose, poi, dire che in realtà uno si scava sempre un percorso che se non trova risposta nell'insegnante lo trova in un compagno di corso. Certo. Sono stati anni molto preziosi per codificare tutta quella raccolta di visti, segni, abitudini che poi sono diventati in poco tempo una forma di stile, se vogliamo. It's a long way back to Katona, time isn't mine. Oh, just when I was certain I owned you, yeah, it's clear I never will while you're away. And I'm back in Katona watching the neighbor's yard. You're talking with Susan, laughing with Mona, and I'm thinking long and hard. No, I'm not yours, nothing's ours, you're not mine. I'm at home, on my own, all the time, all the time, all the time. Will you walk back to Katona and find the girl you told as I like home and hands that you wanted to hold? No, I'm not yours, nothing's ours, you're not mine. I'm at home, on my own, all the time, all the time, all the time. Che ha attraverso una scena di caccia, se vogliamo, dà un input per un'immagine, la sola che è stata costruita ad hoc per la mostra, ed è Canto della Carogna, è un dipinto legato ad un'opera custodita nelle loro collezioni, alle collezioni del Palazzo, di Giuseppe Maria Crespi, attribuito a Giuseppe Maria Crespi, che ho ricreato nello stesso formato, ma su un materiale diverso. Questo è rame, dipinto ad olio, olio che reagisce con aniline, per cui abbiamo un colore che è quasi surriscaldato, dorato della superficie. Se ci avviciniamo scopriamo che molte delle immagini sono state scorticate, fisicamente spellate. Quando si pensa alla lepre e al coniglio, e poi l'ho detto spesso, mi sono scoperto forse pittore ripensando a queste esperienze anche traumatiche che fanno parte di un'infanzia contadina come quella che ho vissuto io, vedere spellare il coniglio. Questa pelle che mi veste il corpo è stato qualche cosa che nel tempo si è fortificato nella mia memoria, e l'immagine della lepre per me porta inevitabilmente a una conseguenza che è quasi diretta, certo non spellare la selvaggina reale ma la pittura, che diventa una metafora fisica dell'immagine, della rappresentazione della lepre. E l'apertura dell'immagine con la spellatura della superficie del pigmento d'olio, visibilissimo in questo lavoro, è una pratica che ho messo a punto alla fine del 2009, all'inizio del 2010, come un sistema mutuato da un incidente di percorso, che non è neanche un incidente, è la raccolta di segnali normali che appartengono alla vita nello studio. Spellare una superficie molto liscia per pulire una tavolozza e scoprire il rovescio della pittura. È qualcosa che ho fatto tante volte, ma c'è un momento nel quale si osserva lo stesso gesto in un modo diverso, perché probabilmente il lavoro è pronto ad ospitare un segnale che è diventato improvvisamente fecondo, quando invece è stato inerte per tantissimo tempo. Spellare la pittura significa scoprire quello che è stato dimenticato o non visto nel momento nel quale si stava dipingendo. Quello che non si pensa della pittura di solito è che non si va solo formando un'immagine davanti agli occhi, ma ce n'è un'altra che scompare progressivamente. Dipingere significa anche seppellire, pennellata su pennellata su pennellata. C'è invece un primo livello di stesura, quello proprio scomparso ai nostri occhi con i livelli successivi, che possiamo riscoprire. Immaginiamo di dipingere su un vetro, di non controllare il vetro dello stesso. Quello che scopriamo dietro è semplicemente imprevedibile e anche affascinante, perché ha a che fare con qualcosa che ci è sfuggito dal controllo, quindi ha un margine di spontaneità superiore. Quindi, se volessimo, noi potremmo riavvolgere questa immagine, tirare su questa pelle e riscoprire tutta la lacuna come una presenza dipinta nella stessa maniera delle braccia e delle mani. La scelta dei soggetti non è casuale, non ha solo a che fare con il mio innamoramento per il barocco e in particolare per l'artista del quale vi parlavo in precedenza, che è José de Ribera, lo stesso autore che ha coniato questa immagine nel XVII secolo, ma è la postura delle figure che viene selezionata per qualche cosa che costituirà uno spostamento ottico e di senso dell'immagine stessa. Questa immagine di San Paolo Eremita, che sorregge un teschio nella matrice barocca, non ha più un teschio in evidenza, ma predispone le braccia ad accogliere il cascame del corpo. Quindi, un'immagine scelta prefigurando già questa dimensione di apertura dell'immagine. In realtà non è uno sfregio. Lo sfregio che ho dato come titolo alla mostra è una parola equivoco, è quasi una sorta di inganno che per alcuni sarà la linea guida di tutta la mostra. Quindi, bene, andiamo a vedere una mostra fatta di sculture e dipinti rovinati. Questa è la lettura veramente più su quella galleggiante, più quella più diffusa. Rovinati dall'autore stesso. Rovinati dall'autore stesso. Ma no, non è detto, molti non lo pensano, sono lavori comprati, vecchi, e poi rovinati, sì, è una battaglia continua questa. Come pensare l'idea che si tratti di cose così recuperate e poi diciamo un po' guastate, un po' scarnificate? Cosa del tutto falsa, perché fisicamente sarebbe impossibile. Ognuno dei miei lavori, per essere rimodellato, scritto in questo modo, ha bisogno di una ricostruzione radicale, totale, perché io lavoro sulla mollezza della pittura, su qualche cosa che non è neanche pensabile nella pittura d'olio calcificata nel tempo. Quindi avere questo lavoro antico e cercare di manometterlo così è fisicamente impossibile. Però funziona anche a più livelli, cioè l'ignorante totale comunque... Il tuo messaggio secondo me arriva alla dimensione del messaggio, che è quella urtante, urticante di un'immagine ferita, che non è poco, perché comunque sentire la ferita nell'immagine, che in qualche modo diventa un testimone della nostra presenza fisica, è un livello interessante. Infatti hai parlato della tua origine contadina, eccetera. mi sembra che in questa modalità di preparazione del lavoro ci sia il pensiero di voler in un certo modo aiutare anche chi di pittura non capisce, o sbaglio? No, io in realtà non credo di cercare di aiutare nessuno. E... no, cioè, avvicinare. No, non cerco di dire delle piste facili per avvicinare. Sono anch'io in parte quel tipo di persona. Cioè, ho bisogno di questo livello di immagine per vivere la fine in fondo. Quindi in realtà anch'io sono pubblico, cioè, sempre dire il pubblico ignorante. Noi tutti siamo pubblico ignorante di qualcosa che non conosciamo, tutto sommato. E lo siamo forse anche di certi registri dell'arte, perché no? Cioè, posso dire che per vivere appieno, in maniera emotiva e intellettuale, un'immagine ho bisogno di una certa serie di categorie, di cose che sono poi quelle che cerco di replicare nel mio lavoro, che probabilmente intercettano un arco abbastanza vasto, più di altri tipi magari di ricerche sofisticatissime che hanno bisogno di una preparazione inevitabile, altrimenti diventano codici muti. Qui ci sono degli indizi che stato possono scavalcare alcune barriere che non sono soltanto di educazione, ma anche di religione e di cultura, cosa che ho sperimentato lavorando molto all'estero. In Oriente mi sono sorpreso del fatto, ho realizzato una mostra molto grande in un museo in Taiwan, dove quando mi sono ritrovato a raccontare un po' la forma, la nascita delle opere, c'erano problemi incredibili di traduzione di espressioni che per noi sono semplicissime, giudizio universale o crocifissione di Cristo, dice non esiste nel nostro linguaggio, non c'è una cosa. Quello è un momento importante perché dici, ok, bene, noi poniamo, li usiamo come perni, no? Sono pietre di paragone dello sviluppo delle arti, del pensiero. Qui c'è il mio lavoro, c'è questa cosa, loro non sanno neanche cosa significa, eppure hanno chiesto di vederla lo stesso. Che cosa interessa di questo lavoro se non sai nemmeno chi è Gesù Cristo? Questa è una cosa interessante, perché ci sono degli elementi che comunque toccano tutti i livelli, tutti i registri. Quando dicevo ferita dell'immagine, l'abilità nella costruzione, ci sono anche dei valori che in parte sono stati massacrati, dispersi nel tempo, che invece riescono in qualche maniera a toccare tutti i livelli, perché ne abbiamo fatto tutti esperienza, indipendentemente dal codice religioso, estetico o altro. Chiaro che una persona che ha una formazione occidentale, che si pone di fronte al mio lavoro, ha una quantità di informazioni in più per andare in profondità, ma diciamo, credo che per tanti, un po' per tutti, ci possono essere dei registri dove si crea una confidenza con le immagini, che sia anche proprio quella dell'urto semplice, mi fa schifo una cosa, e va bene. L'apertura delle forme nel tempo è stata seguita e sviluppata in tantissimi modi, da una dimensione diciamo più aggressiva e brutale, questa si sviluppa in velocità, questa è una forma che è aperta in 4 minuti, taglierino, si parte dall'alto, tengo proprio lo scalpo in un certo senso, sono mancino, lo tengo con la destra e con la sinistra, si vedono ancora i segni, proprio gli sfregi sul rame, comincio a squarticare, tagliando e con una mano accompagno. Cioè, è un gesto continuo. Questo secco, quando era già secco? No, quando era ancora parzialmente flessibile. Okay. Adesso non potrei più farlo. Okay. Si spezzerebbe e si scheggerebbe in ogni punto. Sì. Ci sono circa 2 settimane, 3 settimane di tempo a seconda dello spessore della pellicola. Certo. Quello che si vede è tutto. Anche questo implica comunque una sapienza rispetto all'olio, che è notevolissimo. Cioè, serve spessore, consistenza, qualcosa che si matura attraverso ripetuti fallimenti. Chiaro. Ma il fatto stesso di diciamo scoprire o riscoprire l'olio in questi termini non è poi così scontato. Noi pensiamo all'olio, è vero che è una cosa fantastica per rappresentare la carne, ma credo che non in molti siano a conoscenza del fatto che l'olio ha veramente una consistenza, quando viene spellato nel momento giusto, che è simile alla pelle umana, è similissima. Questo io l'ho capito spellando le tavolozze. Certo. Che senza resine, altri additivi, mantiene un'elasticità e una dimensione, poi essendo mescolato con olio di lino, olio di noce, è veramente una sorta di consanguineità con quello che hanno vissuto. Questo tipo di velocità invece si scardina in un'altra modalità di apertura della forma, di riscrittura della forma, che è questa, emblematica, invece dell'idea parossistica del controllo di uno sfregio, che non è più uno sfregio, ma in realtà è l'atto di cura maggiore dell'immagine, in sintesi. Questa nasce come dipinto, ispirato a una Madonna di Memling, interamente dipinto in ogni sua parte, come l'orecchio che vedete, la gola, eccetera. Una volta dipinta l'immagine, il volto, la mia operazione è stata la seguente: partire da questo punto, quindi siamo nella periferia del volto, e con un bulino taglientissimo, ancora una volta stesso gesto, sollevo un capello d'olio, lo tengo con la mano, il tutto l'ho fatto in orizzontale su una ruota, elemento rotante per cui ho potuto muovere l'immagine con facilità, e ho scavato fino alla caruncola lacrimale, attaccando tutto il volto, mentre appunto da qui esce la lacrima. L'esercizio ovviamente richiede una abilità e un controllo piuttosto alti ed ha un precedente storico al quale in qualche misura mi sono ispirato, meraviglioso, un'incisione di Mellin, che è un volto, la sindone, realizzato con un solo segno, a partire dal naso verso l'esterno, di bulino, ovviamente non un solo segno, si sarà interrotto milioni di volte nel farlo, ma quello che noi vediamo è una linea continua che a seconda della pressione disegna il volto. Con questa immagine nella testa, ricostruito una forma in modalità diversi, comunque cerca di ripercorrere quell'idea di controllo che non va a definire, perché questa linea non sta più definendo il volto, ma in realtà lo disperde, tanto che alla fine il filo l'ho fatto ricadere in modo libero in orizzontale sul volto e ha assunto questa forma. Quindi c'è un gesto, il gesto finale in realtà è di totale disordine. Coxo spaziale! Scelgo volontariamente dei momenti di estrema fragilità perché fa parte della mia stessa poetica. Certo. È vero che io affido la mia mortalità ad un'immagine che può resistere un pochino di più. Tanto si fanno queste cose perché c'è sempre questa paura del trapasso. Non sono ossessionato dall'idea della morte, ma è una cosa che mi attraversa naturalmente. Una persona alla claustrofama, l'immortalità l'hai avuta, dai. No, sono niente, delle virgole che si mettono in una palafitta fragilissima. Si potrebbe partire a parlare dell'immortalità dell'artista, ma te lo risparmio. Dai. E gli ultimi lavori accolti dalle collezioni del palazzo nella mia mostra sono queste due forme laterali, ritratti di donne cieche, presunte tali di Annibale Carracci, due lavori che conoscevo da molto tempo, e che riescono a nutrire eccezionalmente questa galleria di palpebre abbassate, di occhi perforati, di forme spente o cadute in una cecità, come in questo caso, dovuta al debordare del fondo oro sulla forma stessa. Quindi sì, questa stanza minerale chiude con lavori relativamente recenti, sono il mio rapporto con quella che consideriamo un'imperfezione nel materiale o scrittura delle pietre. Dopo aver letto un testo meraviglioso di Kai Wak, proprio la scrittura delle pietre, questo lavoro e altri hanno preso un po' più corpo e sostanza. È stato molto importante. Questo è strepitoso. In questi, ecco, l'elemento che abbiamo visto prima, faccio ingresso con un dito nella pittura, nella pietra non posso farlo, però mi viene incontro il fatto che la pietra ha delle aperture spontanee, sono i geodi. Quindi in questo caso la ferita non è qualcosa che io porto nella pittura, ma preesiste, qualcosa che è arrivato infinitamente prima. È la pittura che si dispone intorno alla ferita, che le dà questo significato, perché altrimenti non sarebbe leggibile in quanto tale. Of heretics and rages, of bleeding red. castles turn to shambles, conquests to rambles. Make your own money, man, it won't be enough to save. But I see roses climbing up the porches of places that I yearn to belong. You got your crooked laws, I've got mine, but I'll break them any time to stop and smell the roses. And if I told you in a funny accent that I'm no good, would you believe a word? It was not a contest of who I loved better. Would you feel assured? Would you feel assured? And I see roses climbing up the porches of places that I yearn to belong. You got your crooked laws, I've got mine, but I'll break them anytime. Break them anytime. I'll break them anytime. I'll break them anytime to stop and smell the roses. Cos'è che la cosa che ti ha fatto più schifo in assoluto di tutta questa esperienza? Il fatto di dover presenziare ripetutamente, quindi non esclusa questa intervista. E di avere a che fare con gente come me, capito? Che ti importuna, e fra l'altro il mio grado di importunamento va dalle tecniche utilizzate, perché sono un pittore anch'io, a tutto, a come hai fatto a diventare famoso, eccetera, eccetera. È la prima volta che sono ostaggio di una mia mostra, esatto. Quindi sono diventato una cosa fra le cose qua dentro. Questo non me lo aspettavo ed è disdicevole. Quante opere sono in questa mostra? Più o meno quasi 80, come sai benissimo, visto che ne ho parlato di ognuna, di conseguenza è una cosa stancante quasi a vedersi. Da questa mostra se ne esce comunque con un'idea piuttosto precisa, o piaccio o dispiaccio veramente. Non credo che manchino gli elementi per valutare e soppesare quello che ho realizzato. Io dubito fortemente che qualcuno che appunto entra da spettatore pagante dentro questa mostra decida che non gli piaci, anche perché quello che invito agli spettatori che verranno a visitarla, vi invito a guardare con molta attenzione proprio i materiali usati, perché questo io credo che non sia comune a molti artisti, l'attenzione verso il materiale. Per esempio in alcuni dipinti hai dipinto su pietre che avevano già dei segni, no? Sì, certamente. Io ho il culto dei materiali, anche perché senza materiali non riesco a pensare a niente, quindi non sarei un puro artista concettuale, questo è piuttosto evidente a chiunque si inoltri in questo percorso. La materia è un attivatore, solitamente è un suggeritore. Accadono delle cose che precedono la mia esistenza, nelle pietre in particolare, e poi possono essere lette, rilette, assimilate. Ecco, io sono a caccia di questi segnali che in qualche modo stimolano l'immaginazione, che entra poi in interferenza anche con quella che è la storia dell'arte, la pinacoteca stessa del mio immaginario, che è vastissima. Insomma, una serie di cortocircuiti fra la pelle della pittura tradizionalmente intesa e una campionatura di materiali che non ti aspetti, perché credo che questa mostra sia piena, gravida di materiali che non ti aspetti. Ma dunque tu ti ritieni uno scultore o un pittore? Ma uno scultore che dipinge e un pittore che scolpisce, cioè non c'è una soluzione di continuità. Quando si guardano in faccia i miei dipinti non li si può guardare solo frontalmente, viene voglia di osservarli di profilo. E già questo è un aspetto che appartiene alla scultura. Poi la scultura la si guarda quasi come quadro cromatico alle volte, perché è talmente piena di segni, impurità e cromie, che penso si capisca chiaramente che è opera di uno che dipinge. Adesso io voglio essere, stavolta lo faccio un po' io, l'avvocato del diavolo, perché io mi viene da pensarti come pittore, perché mi porti in un mondo a sé, mentre invece lo scultore, io a livello filosofico, lo ritengo uno che ha a che fare col qui ed ora, no? Cioè la scultura ha questa sua valenza che non puoi passarci in mezzo, cioè ci devi girare attorno, no? Devi farci i conti con la scultura così come devi fare i conti con la realtà, mentre invece la tua pittura, cioè il tuo fare arte mi porta in un mondo che è diverso. Dove sto sbagliando? Ma non è che stai sbagliando, però il tuo approccio alla pittura è notevolmente differente dal mio, perché invece quello che dico quando dipingo è proprio che la pittura è una materialità, non è che questo blocchi la possibilità di muoversi, di spingersi in un altrove, ma se si osservano i miei dipinti si nota che si fanno oggetti fisici appunto da controllare in ogni direzione, di profilo, di fronte, si fanno quasi sculture, quindi io l'ostacolo che vedi nella scultura lo trovo identico nella pittura come materia, in qualche modo da aggravare, da sublimare, da trasformare, insomma sono vecchi problemi con i quali ci confrontiamo tutti da un bel po' di tempo e penso che avremo a che farci ancora per un bel po'. Dove pensi che andrà la pittura? Da nessuna parte, come non è mai andata da nessuna parte, ma l'arte tutta non deve andare da nessuna parte, non fa altro che ripetere le stesse cose in maniera leggermente diversa. Quindi in questo ho scelto un codice che è persino tranquillizzante, è inevitabile. La pittura oggi in particolare se ha una funzione, quella di riportarci una dimensione più umanizzante. È più lenta, ha a che fare con quelli che sono i ritmi inevitabilmente anche pigri del nostro corpo, i limiti dei nostri gesti, ecco. Per questa ragione ha un senso, di sicuro non sta vivendo la più felice delle stagioni possibili immaginabili, perché c'è una caduta di fede nella pittura. Ci interessa davvero quanti sono gli spettatori della pittura? Beh, veramente pochi. Però nello stesso tempo abbiamo questa esplosione di pittura, di gente che dipinge, di immagini pittoriche nei social. Che cosa ne pensi di tutto questo? Tu ci sei su Instagram, per dire? Ci sono le cose mie su Instagram, io ho sempre deciso di non esserci in prima persona. Questo okay. Non significa che non lo farò mai, sono una repulsione assoluta per i social, ma tutte le cose che comportano una dispersione di tempo, delle energie supplementari rispetto a quelle infinite che richiede lo sviluppo del mio lavoro, le delego volentieri ad altri. Esatto, perché quello che devo dire oggi ho imparato da te è il rapporto con lo studio, cioè il tuo rapporto con quello che è il tempo del tuo studio, che è una cosa che io personalmente non ho, ma io sono un artista un po' diverso, e devo dire che te l'ho un po' invidiata, cioè questa, quando hai detto in uno dei lavori, hai detto che hai voluto fare un lavoro, siccome tu dipingi velocemente, hai voluto fare un lavoro che ti prendeva più tempo, e questa cosa mi ha incuriosito e in un certo senso te l'ho invidiata, nel senso che capisco quanto immergerti nel tuo studio, immagino da solo, perché poi hai detto anche che non usi assistenti, sia per esempio molto diverso rispetto a quello che vedo appunto di Damien Hirst, che dipinge dal vivo quasi sempre attorniato da persone in un mondo che di studio ha poco. Ma io in questo sono un po' un nostalgico della discrezione e della sorta di mistero che si può creare intorno alla genesi di un'opera. Di molti lavori che mi interessano del passato mi incuriosisce anche il fatto che non ho idea di come siano nati, di come sia stato possibile la loro genesi. Ecco, questo tipo di limite nella comprensione, che in realtà è quasi uno spiraglio di possibilità per amplificare il mistero, diciamo la leggenda dell'opera, mi piace perseguirla nello studio attraverso il tipo di silenzio che mi creo intorno, il fatto che non ho assistenti, il fatto che nessuno mi vede lavorare, nessuno mi ha mai visto lavorare se non per brevissimi frame che io ho concesso, ma non era neanche un lavoro diretto, non era un lavoro strappato al flusso naturale della crescita del mio lavoro. Erano dei momenti scelti, quasi manieristi, nei quali c'erano delle dimostrazioni. Ecco, io non voglio che il mio lavoro diventi una dimostrazione. Quando lavoro solo per me stesso non mi devo mostrare proprio nulla. E dunque lavori in silenzio nello studio o ascolti musica? No, non ascolto musica se non alle volte quando disegno, quando ho bisogno di mantenere la tensione più alta per dei gesti particolarmente maniacali, solo in quel caso, ma raramente, che la mia pittura così come la mia scultura sono talmente rumorose che ogni altra interferenza diventa soltanto cacofonia inutile. Questa la parola maniacale l'hai usata tu, questo lo la ribadisco. Però effettivamente, guardando soprattutto questi che nella sala in cui siamo, questi lavori pregni di olio, che sono ritratti dipinti con una base di, hai detto, 1 o 2 centimetri di olio, che sono già difficili da dipingere perché la base traballa, immagino, un po' gelatinosa. Sì, sì, è cedevole. Dopodiché, appunto, togli, sfregi questi ritratti con un gesto in un momento preciso dell'essiccatura di questo olio, per cui anche a livello tecnico siamo ad una sapienza notevole, insomma. Questa tua maniacalità rispetto alla pittura, da dove ti arriva? Ma è una questione rituale che si è formata negli anni, nel tempo. Il fatto che di diventare quasi l'oggetto, la preda dello strumento che si vorrebbe utilizzare. A me piace anche questa cosa. Non padroneggio soltanto quello che faccio, mi piace essere padroneggiato da quello che sto facendo. Quindi proprio di farmi strumento di qualcosa, quasi in una sorta di dispersione, di perdita della percezione di sé. In questo ovviamente siamo di fronte a qualcosa che somiglia alla meditazione piuttosto che alla preghiera. Io ricordo che ho tentato di fare meditazione trascendentale qualche tempo fa, inutilmente, ovviamente mosso da Lynch come tanti altri, e mi accorgevo che la cosa mi innervosiva e basta, ma per una semplice ragione, perché io lo facevo già abitualmente. Cioè, per me calarmi nella costruzione di un'immagine è un atto meditativo di straniamento. Posso dire che quando dipingo non penso al fatto che sto dipingendo, penso a tutto fuorché a quella cosa lì. È un momento di straniamento e non so neanche che cosa penso di preciso. Cioè proprio è calarsi, è disperdersi, è uscire dal tempo, quasi. Picasso diceva che risultava così giovane perché nel momento in cui metteva piede nello studio lasciava il corpo fuori dallo studio. Io capisco questa affermazione, perché veramente non sospendere il tempo quando ci si cala nella pittura come qualcosa di spontaneo e non qualcosa che va conquistato, riconquistato, costruito faticosamente. Ecco, questa è poi la differenza fra la dimensione forse del talento e quella dell'ostinazione. E un'altra cosa che mi ha impressionato di questa mostra è che noto una conoscenza dell'anatomia umana notevolissima, che anzi è molto difficile da trovare ai nostri giorni, nel senso che magari anche solo 20 anni fa chi aveva fatto il liceo artistico vecchio ordinamento aveva disegnato 8 ore alla settimana solo anatomia, per cui quella sapienza era un po', e adesso mi sembra molto più difficile trovarla, e anzi mi sembra proprio che in te sia quasi innata, no? Cioè è una roba, tu hai sempre disegnato da quando sei nato, o sbaglio? Cioè non c'è altra spiegazione. Io ho cominciato a disegnare da bambino piccolissimo e posso anche raccontarti qual è stata un po' la dinamica. Ho disegnato dei giocattoli, delle cose che desideravo avere, farmi comprare, ma che non esistevano, quindi per documentare, penso a mia mamma, quello che avevo voglia di avere, di trovare in negozio, era disegnarlo, ma ho disegnato cose che non c'erano. E tipo così la cosa mi è riuscita facilissima. Io non ho mai avuto un problema, un ostacolo particolare nel dire vedo, rappresento, immagino, rappresento. Poi il discorso della conoscenza anatomica, no, magari la conoscessi veramente così bene, mi sono accorto durante questo seconda ondata infinita di pandemia, che mi ha anche concesso, non adesso ma all'inizio, qualche tempo morto, di tentare di ripassare alcuni dei fondamentali dell'anatomia, e per dirti di non conoscere le ossa del bacino a menadito. Cioè ci sono cose che in realtà mi sfuggono molto e mi creano anche un certo nervosismo, per cui mi sono rimesso all'inizio di gennaio a ristudiare anatomia in maniera meticolosa. Non è soltanto un capriccio, certo. Dipende da che cosa vuoi fare, naturalmente. Esatto. Cioè, io immagino che tu, quando hai visto il Salvatore Mundi in televisione, l'hai visto subito che quello non era Leonardo, dalle spalle anatomicamente sbagliate di Salvatore Mundi. L'ho visto anche dal vivo alla National Gallery quando è stato esposto, okay. Ma non è che ci fosse bisogno esattamente di un confronto dal vivo per intuire il fatto che, come qualcuno ha detto in modo un po' velenoso, ma non del tutto fuori fuoco, fuori luogo, che i restauratori avevano fatto un ottimo lavoro per trasformare quell'opera in un Leonardo. Esatto. Esattamente, no, infatti, però effettivamente è un linguaggio, quello anatomico, che o lo sa, cioè o lo sai un minimo, o comunque lo hai studiato, o non sai di che cosa stiamo parlando. Diciamo che di sicuro lo pretendiamo da alcuni dei maestri e dei maghi dell'anatomia, perché se si pensa oggi al tipo di competenze che avevano sviluppato uomini come Leonardo, come Michelangelo, nella fabbricazione di corpi a memoria, soprattutto perché oggi è relativamente facile verificare in una riproduzione fotografica come si comporta e come si atteggia il corpo. Qui invece bisogna pensare che queste persone avevano la macchina umana in testa, per cui erano ormai abili nel riuscire a produrre una distorsione, una prospettiva, uno scorcio, in particolare uno scorcio in modo credibile, senza un riferimento naturale che non fosse alle volte, non so, un modellino, una traccia o qualche cosa di schizzato dal vivo in pochi istanti. Dunque, sì, poi le magagne esistevano anche a quel tempo, perché la cerchia di Leonardo è fatta di persone che, insomma, vivevano l'anatomia come un vago riverbero di quello che il maestro aveva messo sui fogli. Certo. Ti faccio un'ultima domanda, come se fossi una rock star. Se tu dovessi dare un consiglio a un giovane artista che vuole intraprendere la tua carriera, quale sarebbe? Quella di non chiedere nessun consiglio, è sempre questo, almeno io non ne ho chiesti per fare quello che ho fatto, è forse una questione anche di orgoglio o altro. No, i cattivi e i buoni esempi, una persona è in grado di trovarseli da solo, non c'è bisogno di dare tanti consigli, quindi se volete chiederli bene, ma già il fatto di domandare consigli secondo me è un indice che non è molto promettente. Perfetto. Io ti ringrazio tantissimo e naturalmente invito tutti a venire a vedere la mostra Palazzo Fava di Nicola Samori, che davvero, davvero ne vale la pena. Benissimo, ringrazio a voi e spero che ci sia modo di confrontarsi davvero con le cose delle quali abbiamo parlato, ma la pittura non si racconta a parole ovviamente, quindi manca una cosa importante, cioè frequentarla con gli occhi. Grazie. Corso spaziale. Naturalmente, come dicevamo la settimana scorsa, Art City comincerà dal 7 maggio con un sacco di iniziative istituzionali e non istituzionali. Ne parleremo nelle prossime puntate di Coxo Spaziale, sempre al lunedì, sempre alle 19, dalle 19 alle 20, sempre su Radio Città Fujiko. Io ero Stefano W. Pasquini e questo era Coxo Spaziale. Ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie.